gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Mi abbronzo ancora un po', lentamente. Un'estate nuova è già, l'amore arriverà, come sempre. Tu, all'improvviso, nei miei pensieri adesso che ci fai? Che non mi fido, che al mio cuore più non credo, ma stavolta l'hai deciso tu, nei miei pensieri tu, all'improvviso tu, non t'aspettavo sai, tu, nei miei discorsi tu, nei miei silenzi, e mi scappa da ridere. Settembre arriverà e tutto cambierà inevitabilmente, e qualcosa resterà, qualcosa se ne andrà silenziosamente. Tu con quel sorriso, nei miei pensieri adesso che ci fai? Io che non mi fido, che al mio cuore più non credo, ma stavolta l'hai deciso tu, nei miei pensieri tu, all'improvviso tu, non t'aspettavo sai, tu, nei miei discorsi tu, nei miei silenzi, e mi scappa da ridere, ridere. Pensieri tu, all'improvviso tu, adesso che ci fai? Tu, chissà se adesso tu mi stai pensando, chissà dove sarai. Calabrese non è un mambo piemontese, ma hey mambo, no non è tarantella, hey mambo, non voglio mozzarella, no no no, mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Sempre restata col suo mambo italiano. Hey mambo, hey mambo, no no no. da noi sempre restata col suo mambo. Sabato sera, quando stretta a me, sabato sera, hai deciso di me, della mia vita, che adesso cambierà, sarà più facile sorridere. Adesso che vivrai con me sempre, e mi hai detto sì sabato sera, hai creduto in me sabato sera, hai deciso di me, della mia vita, che adesso cambierà. È inutile parlare ancora di... Sì, è inutile parlare ancora di tutte queste cose. Se proprio si dovrà parlare, facciamo come dico io. Cerca un altro argomento di conversazione. Altro argomento di conversazione. Quando per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo cosa siamo, quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire. paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, son la tua malattia, paese mio, ti lascio e vai. Sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa, so far tutto, forse niente, da domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà. Correrai distratta che viene e va.

Jazz. Su Marti Ivanovski. Serve bangana tutto in me. Ma Dio non ti perdona quella che hai fatto a me. È femmina, tu si ama la femmina. Chi sto che hai fatto chiagnerà la crema infamità. L'anima non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve. Cosa fai? Che tutto solo te ne stai? città. Just Music Radio. Ma dimmi cos'è l'azzurro infinito che per incanto colgo più in là, a due passi dall'eternità. Svanirà questa antica nebbia che occulta l'anima. Ma dimmi cos'è quello che sento in me, l'ansia di capire perché. Dal ricordo di mille realtà si udirà l'armonia che cerco in fondo all'anima. E seminerò quei fiori che daranno senso al sole nell'immensità di un sogno. Traccerò le rotte dell'amore. carità. State con me, non me lascia, fammi pena, fammi impazzi, fammi danna, ma rimasi. Sera, chissà, è polpacci poveretta, fino a sera, sera, chissà che piedi gonfi avrai. Rosalina, Rosalina, a me piaci grassottina, ma quando è sera, sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i bignè. Amore mio, ti voglio bene come sei. Sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà. E poi vedrai che un po' di moto ti aiuterà. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta. Fino a sera, sera, chissà i polpacci poveretta. Fino a sera, sera, chissà che piedi gonfi avrai. Dice che col tempo dimagrirai, ma non importa amore, non cambiare mai. Hai fatto caso che le magre sono tristi, e invece tu hai sempre voglia di cantare. Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, oh sera, ti sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i bimbi. Sono argomenti di cui non parlerò. Ma le braccia volitive, avvolgenti, forti, sono le cose che ad occhi aperti fa sognare di te. essenziale per me. Thank you. così una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, un bene così, a così grande. Summer's day, we walked alone a lonely seashore, then sailed a boat out across the bay. For me, the sea and the sky were singing, the day was bringing true love our way. Azzurro, azure skies above our blue, I love you, I do. Azzurro, you know I only wanna stay forever with you. Together we'll turn the world a little slow, so there's more time for us to share. Azzurro, I'll always love you. The world is mine as long as you are there. When you sing the song of summer, I hear the music, it's winter's day. Out of the shadows of a sorrow, with each tomorrow, you'll hear me say. Azzurro, as sure as skies above our blue, I love you, I do. Azzurro, you know I only wanna stay forever with you. Together we'll turn the world a little slow, so there's more time for us to share. Azzurro, I'll always love you. The world is mine as long as you are there. Jazz in Future Tense. Thank you. di una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni d'amore, mandale rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle il meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E stai sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama è più forte, si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che poco è importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora si vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora si vedrai che t'amerà, chi meno ama è più forte, si sa. Ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia perdere. Su questo sarai d'accordo con me, senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è. Terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare nella bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Quell'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Con il trucco e un po' di mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto. Si sentiva già felice, ricominciò il suo canto. Giù, quasi all'orizzonte, chissà dove andrà. Se farà scalo qui vicino, facendo rotta verso un porto tropicale, virando verso su, vento caldo da sud-est, le cime bagnate asciugherà, come viandante stanco a blu, riposerà lasciandosi avvicinare dai marinai sul ponte. La nave in mare vista dal cielo è come terra da abitare, mentre da sott'acqua è solo un pesce che è lento, enorme, assente, getta un'ombra preoccupante, non fa alza spruzzi, lascia troppa scia in dizzi, piglia grosse onde sui denti e non sfrutta le correnti, da sott'acqua è solo un pesce che non sa nuotare. Passerà quasi all'orizzonte, chissà dove andrà, porterà cose oppure gente, democrazia da esportare sotto sale, prodotta in qualche no, vento caldo da sud-est, le cime bagnate asciugherà, come viandante stanco a blu, un mio gradò, riposerà lasciandosi avvicinare dai marinai sul ponte. La nave mare di spada a terra è in aria uccello da seguire, mentre a bordo è come un mondo che lento, enorme, ansante, galleggiando, ambulante, spuma, spruzzi e di sui spazi, labirinti d'interstizi, approfondo sempre un canto dei pensieri contrappunto, è una casa senza porte, nella stiva la sua corte, da sott'acqua è solo un pesce che a nuotare non riesce, non fa guizzi, alza spruzzi, lascia troppa scindi, piglia grosse onde sui denti e non sfrutta le correnti, mentre a bordo è come un mondo che approfondo sempre un canto dei pensieri contrappunto, galleggiando ambulante, muove lento e non pensante, spuma spruzza di sui spazi, la vita di interstizio, Just Music Radio. Stay tuned. Thank you. carità. Sì, muore per te. immortali, un gatto che legge i giornali. Quando vedi tua nonna ballare già già, non ti devi impressionare. Scherzi di primavera, non farci caso ma lascia andare. Sono scherzi di primavera e anche tu ci puoi cascare. Prendere tu puoi fare nel cielo azzurro sopra di nuvole volano le rondini, però da retta a me non ti fidare. Scherzi di primavera, la prima bocca che vuoi baciare, se quella non è sincera non te la prendere. Preferisce la musica ritmata. Canzonissima è giunta al Trancalà. Quando vedi un cavallo che prende un gelato e una mucca che vola su un prato, quando apri la radio vien fuori il caffè, non ti devi impressionare. Ciao.